Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10-8 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero e noi oggi non ci riposeremo per niente perché dovremo stare davanti ai fornelli, ma non tanto a cucinare quanto a dare gusto alla vita. Di questo oggi parleremo con una nostra ospite in studio, non vi svelo chi è, lo scoprirete tra poco, e poi tanti altri ospiti al telefono. Ma intanto vi ricordo che anche oggi giocheremo con Picasso in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa il catalogo della mostra a Milano e anche il biglietto d'ingresso. La mostra sarà fino a questa settimana, per cui poco tempo per riuscirla a vedere, ma ce la farete. Ma se non ce la farete, avrete comunque il catalogo davvero prezioso e molto ben fatto da consultare e da tenere. Per riuscire ad arrivare a portarvi a casa il premio dovete associare una canzone al titolo di un'opera di Picasso, grazie anche agli aiuti che vi darò. E una di queste canzoni, quindi legata in qualche modo a un'opera, è questa. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Canzone conosciutissima e credo che sia anche molto facilmente associabile a una delle opere di Picasso, con la O maiuscola proprio, avete già capito di cosa parlo, ma dovrete dirmelo più tardi dopo le 11.30 con il gioco. Il numero per prenotarvi 800 24 00 24. Oggi cerchiamo allora di dare gusto alla vita. Preparatevi, non daremo delle ricette, però daremo dei modi, dei consigli, vi sveleremo come dare gusto alla vita anche con la cucina, ma non soltanto, anche con i prodotti magari del nostro orto, se l'avete. Ma la nostra ospite qui sta anche per scrivere un libro su come farsi l'orto in casa, e perché ormai guai a non averlo. Ecco, anche le first lady internazionali ormai devono avere l'orto in casa, quindi immagino che anche le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori lo vorranno sicuramente creare. Ma prima di partire, e io vi ricordo il numero per i vostri messaggi e anche le vostre domande, se ne avete, so che sarà così, 349 238 6666. Ma come sempre parto con una canzone. Il titolo è Fatti un pianto, quindi poco sembrerebbe avere a che fare con il gusto della vita, ma in realtà il testo ha molto a che fare con questo. Il testo è di Pasquale Panella e la voce è quella di Lucio Battisti. Un esperimento di Lucio Battisti con Panella, poi sono su Alizio che è andato avanti fino alla fine dopo l'aspirazione da Mogol. Lisa Casali, ciao, buona domenica. Buongiorno. Allora Lisa, se sbatti un addio c'esce un omelette. Non so se sei d'accordo e non so se il tuo compagno abbia mai, non ti abbia mai detto ben condita amata to. No, assolutamente. Mi risulta assolutamente nuova questa espressione, ma ce ne sono molte altre interessanti, tipo che peccato, hai fatto un piatto così buono perché non me lo cucinerai mai più. Questa è una frase che mi dice spesso tutte le volte che porto in tavola qualcosa di particolarmente buono. Perché... ma perché tu sperimenti a caso, ovviamente. Ho questa indole sperimentatrice che mi porta a rifare due volte esattamente la stessa cosa. Ho laureata in scienze ambientali, master in management ambientale alla Bocconi, hai lavorato anche per il Ministero dell'Ambiente e da 8 anni lavori per il pool inquinamento. E di cosa ti occupi? Mi occupo di rischi ambientali delle aziende italiane, quindi è un lavoro serio, diciamo. Sì, certo. Abbastanza serio, e quindi il pool è un consorzio italiano, esiste da ormai 30 anni e vi partecipano tutte le compagnie di assicurazione italiane, quindi sicuramente insomma un lavoro. Tu dici un vero lavoro, quello che la mamma vorrebbe vedere, ovviamente. Sicuramente. Mentre quello di blogger su cucina e ambiente, quello che vediamo e leggiamo, no. È un gioco? No, beh, diciamo, ormai sì, per me è un secondo lavoro, sicuramente una cosa tutta mia, che diciamo che più dal basso di così non si poteva partire, perché appunto tutto l'inizio di questo progetto è stato nella mia cucina, guardando delle bucce dopo una cena, quindi un cumuletto di bucce, gambi, foglie, che ho deciso di nobilitare, dici, di farne un po' la mia missione. Perché buttarli via, dici, vero? E da lì quindi sono partita... E sperimentando, quindi, come ti dicevo, questa indole un po' da scienziata, sì. E sperimento dopo sperimento ho deciso poi di condividere il più possibile queste idee col mondo esterno, anche di raccogliere nuove idee, nuovi suggerimenti, ed è quello che faccio, diciamo, tutti i giorni sul mio blog Cocucina, naturalmente nel tempo libero. Ecco, certo, che insomma libero non è più, perché ovviamente poi è diventato veramente un mestiere. Il riposo del guerriero. Vorrei partire, Lisa, da un'intervista che c'è stata alle Invasioni Barbariche a Paolo Poli, che a una domanda ha risposto in questo modo, e vorrei sentire il tuo pensiero. A proposito di matrimoni, tu dei matrimoni gay cosa pensi? È noioso, dice, hai messo tu il sale nella pentola? No, dice, guarda, perché io metto l'aglio a crudo e poi levo il pomodoro. Io posso impazzire. Credevo che questo fosse il secolo del sesso, invece è il secolo della cucina. Apri la televisione e non si vede altro, questi che spadellano col cibo biologico. Col cibo biologico, sei d'accordo? Sono d'accordo che sicuramente un po' questo bombardamento che abbiamo tutti i giorni relativamente al cibo, alla cucina, è in escalation, insomma sta continuando sempre di più, è una curva esponenziale, quindi è vero, e come sicuramente è anche vero che probabilmente è un tema che accomuna tutti, è un tema a cui tra l'altro gli italiani piace tanto parlare, mentre si mangia, mentre non si mangia, e ci sono sicuramente temi che possono risultare più educativi e quindi anche importanti in un contesto anche dove ci sono sempre più persone obese, sovrappeso, quindi è importante anche l'educazione. E sicuramente anche altri temi un po' meno puramente di intrattenimento, dove la cucina sicuramente è solo un pretesto, ecco, per intrattenersi. Non rischia così tanta cucina di perdere un po' il suo fascino? Sicuramente sì. Sì, e come diceva anche Alessandro Borghese in una recente intervista, probabilmente chi sopravviverà sarà soltanto chi riuscirà a unire ironia e cucina. Nel mio caso... cerco di fondere sì, la passione per la cucina, il gusto per il cibo, insieme comunque a un pizzico di come dire, cercando di sensibilizzare un po' al tema ambiente. Tu sei molto attenta ai temi ambientali, certo, quindi il recupero del cibo senza buttarlo via. Poi parleremo di questo che è il cucinare in lavastoviglie. Non, cioè, non fate la faccia strana, perché parliamo di una cosa molto seria in realtà. Sì, ad esempio, ecco, questa unione di ambiente e cibo credo che sia ancora non abbastanza sondata e non abbastanza diffusa nel nostro paese, come anche in altri, ecco, quindi sia a livello insomma dell'alta ristorazione come delle singole persone a casa propria, quindi è un tema sicuramente di cui si deve parlare tanto. Su altre cose anch'io ho qualche dubbio. Senti, una domanda: quando tu prepari, anzi quando tu assaggi un piatto, vabbè, lo fai in modo critico perché se sperimenti un po' ma ti lasci trasportare dai sensi o vince il senso critico e non invece quello dell'estetico, diciamo così? Beh, edonista. Credo di essere quelle persone dove il lato estetico ha sicuramente riveste una grandissima importanza. E quando vado soprattutto magari ai ristoranti di alta cucina, per me è come andare a una mostra di un grandissimo artista, quindi mi aspetto di essere stupita, ma vado anche con la mente più aperta possibile e lo vivo come un'esperienza sublime. E, nel quotidiano cerco il giusto mix e sicuramente un buon piatto mal presentato inficia un po' poi il risultato finale. Allora parliamo anche di edonismo in questo senso, di piacere nel vero senso della parola. Nicola Perullo, buona domenica, grazie. Buongiorno. Professore associato di estetica all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ha scritto un libro, si intitola Il gusto come esperienza, saggio di filosofia ed estetica del cibo, edito ovviamente da Slow Food. Io parto da Socrate che diceva: ti pare che un vero filosofo possa curarsi di piaceri come quelli del mangiare e del bere? Rispondiamo, Nicola. È una domanda che accompagna tanta riflessione filosofica occidentale? Di solito i filosofi hanno risposto di no a questa domanda, e anche gli studiosi di estetica, perché c'è sempre stata una distinzione abbastanza così accettata tra i piaceri alti e i piaceri bassi, e i piaceri del cibo, i piaceri della tavola sono solitamente stati inseriti in questa categoria del basso, insomma, dell'istintuale, del corporeo, del fisico, e quindi non tanto degni di riflessione, di studio e quantomeno di filosofia. Io credo che sia invece esattamente il contrario, almeno questa è una mia sensazione, per quello ti ho cercato come ospite, e tu penso che così tendi a quella tesi, a quella contraria. Sì, immagino. Io appunto mi occupo di estetica, poi a un certo punto proprio perché ero guidato da questa passione anche biografica sul cibo, sulla gastronomia, ho cominciato a vedere che tra l'estetica proprio in senso anche accademico e il cibo, la gastronomia, potevano esserci molti punti di interesse, e quindi la mia ricerca cerca di portare il cibo e la gastronomia su un livello che sia degno di riflessione filosofica, di riflessione culturale, però al tempo stesso senza snaturarlo, cioè senza far diventare il cibo e la gastronomia, prima parlavi appunto del piacere, sì, qualcosa che non ha più a che fare con la sua funzione originaria. Io ritengo che la funzione originaria del cibo, sia anche del cibo più buono, del cibo più alto, sia quella di soddisfare alcune necessità che sono appunto lo star bene, il mangiar bene, il nutrirsi bene, e quindi questo è fondamentale. Senti, è vero che il piacere, quindi in questo senso, può essere un ostacolo, è stato considerato tale, all'intelligenza e alla conoscenza? Ma sì, solitamente c'è questa idea, sì, appunto, anche per da lì nasce questa concezione per cui nell'estetica non rientra il cibo, perché solitamente si è inteso con estetica almeno una certa tradizione, quella dei filosofi classici, Kant, Hegel, via dicendo, l'estetica è stata legata alla vista, alla percezione visiva. Dato che qui si ha a che fare soprattutto con il contatto e con i sensi di contatto, con gusto e olfatto, non che la vista non sia importante nel cibo, è molto importante anche la vista, così come l'udito e tutti i sensi, però il gusto e l'olfatto ovviamente hanno una priorità, allora per questo si è pensato che fosse qualcosa di non pertinente, e la conoscenza a maggior ragione. Pensiamo per esempio noi tantissime metafore della conoscenza che ci portiamo dietro e che utilizziamo, dalla parola idea alla parola appunto che riguarda a tutta la sfera delle metafore, sono metafore visive, sono metafore che riguardano la sfera della vista, e quindi conoscere significa vedere, e quindi si pensa che il piacere del palato, il piacere fisico, non sia un piacere cognitivo, quando poi in realtà, come prima diceva la vostra ospite, in realtà se uno va in un ristorante di un certo tipo, ma se soltanto anche col cibo più quotidiano si fa attenzione, tutti noi siamo in grado di riflettere su quello che mangiamo, e è interessante notare come uno dei primi passi che testimoniano che uno comincia a essere un po' esperto di qualcosa è quando comincia a saper distinguere tra ciò che piace a lui, che è fondamentale, ineliminabile, ma è una sfera singola, privata, individuale, e ciò che può essere considerato di buona qualità anche se a lui non piace moltissimo. Ecco, si può distinguere tra qualcosa che ci piace molto anche se non è di ottima qualità, e viceversa qualcosa che è di ottima qualità anche se non è proprio per noi. Però riconosciamo il fatto che sia di ottima qualità, è ovvio, perché comunque l'atteggiamento è diverso. Quando uno comincia a fare questa distinzione, vuol dire, come si fa per le altre, sì, per le altre sfere, no? Per il cinema, per la musica, per la pittura e per altre... Ma, per altre sfere, diciamo, dell'estetica. Infatti io concordo appieno, e per questo, insomma, se siete curiosi, e lo consiglio anche a Lisa Casali, andate a scovare il libro di Nicola Perullo, che si intitola Il gusto come esperienza. È un saggio di filosofia ed estetica del cibo, edito da Slow Food, ed è facile da leggere. Non pensate di leggere chissà cosa, nel senso come possa essere complicato il libro, invece in realtà è un saggio molto semplice e che vi accompagna passo passo a capire l'estetica proprio del cibo, per come la vede il professor Perullo. Grazie, buona domenica. Grazie a voi, buongiorno. Grazie. Lisa, eri d'accordo, immagino, perché è così. Sì, sono assolutamente d'accordo, quindi questo fatto del piacere del cibo, che comunque possiamo anche in un qualche modo elevarlo. Dobbiamo farlo. Parliamo della lavastoviglie invece. La lavastoviglie è un progetto serio, quindi anche sono se sicura fa ridere, che perché detto così, sai. Alcuni dei nostri ascoltatori avranno aggrottato le ciglia, altri probabilmente si saranno fatti una risata, invece è una cosa seria. Beh, senti, scusa, mi interrompo prima di entrare nella lavastoviglie. Mi viene in mente una cosa, molti anni fa c'era il dolce forno, no? Sono abbastanza vecchio per ricordarlo. Funzionava con due lampadine da 100 watt, perché le lampadine scaldavano, adesso oggi non funzionerebbe più perché le lampadine non ci sono più, ma scaldavano e quindi si poteva cuocere nel forno che funzionava col caldo ma con la lampadina, no? Per cui il procedimento, la lavastoviglie in realtà scalda ed è un forno perché viene chiusa, quindi da lì si può pensare di cucinare lì dentro. Sì, diciamo che è sicuramente un forno, però più che al dolce forno lo associerei a un forno super professionale, perché pensa, ci permette di cuocere a bassa temperatura, quindi è una tecnica che è un po', diciamo, un'esclusiva di chi possiede questi strumenti, ovvero insomma principalmente l'alta cucina. E tutti i prodotti animali danno il meglio di sé, quindi in termini di consistenza, proprietà organolettiche, cotti a bassa temperatura, quindi stiamo parlando di pesci, crostacei, molluschi, carni, uova, le consistenze, la succulenza, il gusto sono esaltati al massimo. E io sono partita proprio da questo, quindi prima di realizzare che la lavastoviglie poteva essere lo strumento ideale per fare questo tipo di cottura, io cercavo in casa mia di riprodurre quello che avevo mangiato in questi fantastici ristoranti. Cioè il problema è che per mantenere le qualità organolettiche di determinati cibi, come il pesce, hai citato anche la carne e le uova, bisognerebbe cuocere questi cibi a una temperatura non superiore ai 65 gradi, sì, una cosa del genere. E tu dici, e a casa dove trovo questa temperatura? Cioè i grandi ristoranti hanno come si chiama? Quel il runner. Runner si chiama, che fa in modo di stabilire una temperatura bassa, tra sì, una vaschetta d'acqua con una resistenza che si imposta una temperatura che poi è 55-65. Invece noi quando cuociamo al vapore andiamo a 100 gradi, immagino. Sì, il vapore è una cottura diversa, infatti molti magari mi dicono è una cottura a vapore? No, non è una cottura a vapore, è una cosa ancora più figa, cioè ancora più interessante. Certo. È una cottura a bassa temperatura. A bassa temperatura. E quindi tu dici, dov'è che ho in casa io ho 65 gradi? E hai trovato la lavastoviglie. Sì, quindi dopo aver passato ore con delle pentole, con dentro dei termometri, diventando matta, ho avuto un giorno questa illuminazione. Poi ovviamente le idee contribuiscono anche gli amici, quindi è stato un amico in realtà che mi ha raccontato di qualche pazzo che aveva fatto degli esperimenti in giro per il mondo senza stare molto attento alla sicurezza, quindi invece per me questa è stata la prima cosa. Quando si rispetta la sicurezza, ovvero si cuoce in contenitori idonei, si può cuocere mentre si lavano i piatti e quindi non solo cuoci a bassa temperatura con dei risultati veramente fantastici, ma in più stai cuocendo mentre lavi i piatti, quindi a impatto zero, senza consumare acqua ed energia. Sì, certo, non consumi oltre, no? Non perché consumi basta altro. Quello. Il riposo del guerriero. Con Lisa Casali oggi stiamo cercando di dare gusto alla vita, parlando di cibo, di gastronomia, ma non soltanto, ma del mondo anche che c'è intorno a questo, anche perché ormai tutto il mondo gira, abbiamo scoperto, sì, intorno alla gastronomia, ormai così. Allora, abbiamo introdotto il discorso lavare in lavastoviglie, quindi voi mentre state lavando i piatti potete usare la stessa energia, la stessa acqua che state consumando in quel momento anche per cucinare, preparare quindi delle pietanze che poi potranno essere conservate credo in frigorifero e consumate, non so, la sera, ecco, io posso lavare mezzogiorno oppure il giorno dopo, no? Anche sì, 2-3 giorni dopo, ecco. Soprattutto se utilizzi per cuocere il sottovuoto, che enfatizzo ovviamente anche questa durata. Allora, spieghiamo una cosa, perché cominciano ad arrivare le domande, tipo, la lavastoviglie, insomma, l'aspetto igienico dove lo mettiamo, i piatti che mettiamo dentro sono sporchi. Questa, guarda, è l'unico requisito da rispettare quando si cuoce la lavastoviglie, l'ermeticità dei contenitori. Io ad esempio ho sperimentato con vasetti di vetro, quelli che si hanno in casa, delle conserve anche riciclati, oppure i sacchetti appunto per il sottovuoto adatti alla cottura. Con questi due tipi di contenitori Ad esempio, ho fatto tanti test anche da una società di analisi chimiche, provando le diverse marche. Quindi, se il contenitore è integro, quindi il tappo non è rovinato e ha una tenuta ermetica. La guarnizione di gomma è a posto, no? Quella sì, che c'è intorno, diciamo, ai, normalmente ai contenitori a baionetta. I vasetti, anche sì, quindi quelli delle marmellate, per dire. Quelli di solito sono perfetti. Quindi, se non abbiamo noi rovinato il tappo col coltello a prenderlo, per dire, normalmente è ermetico. Quindi, basta mettere gli alimenti che siano appunto crostacei, uova, qualunque cosa, li mettiamo dentro al vasetto o nel sacchetto, si sigilla e si mette in lavastoviglie in mezzo ai piatti sporchi. Proprio dalle analisi è risultato che quindi il vetro, il contenitore protegge l'alimento e non entra, in modo da non farlo entrare in contatto con l'acqua di lavaggio. Quindi è una tecnica sicura. I benefici sono tantissimi, io ne ho contati almeno 10 nel mio libro Cucinare lavastoviglie, e sono, vanno dal fatto di poter cuocere senza grassi. Il beneficio non da poco che mentre si cuoce si può fare tutt'altro, quindi non si deve badare alla cottura. E ad esempio, se si fa un lavaggio eco, che è perfetto ad esempio per le carni rosse, si può tranquillamente uscire, visto che dura 3 ore, e dedicarsi ad altro. E quindi questo è sicuramente senza un beneficio non da poco. Senza controllare, tu dici, invece il forno magari devi controllare che tutto sia a posto, perché se la temperatura è troppo alta, ciao. Invece quella è 65, normalmente, adesso faccio l'esempio del lavaggio quotidiano, 65 gradi, e non si sgarra da quello. Insomma. Infatti, e poi un altro beneficio non da poco, non si produce calore, non si produce odore, sì, che anche d'estate o che magari è una casa piccola, comunque possono essere cose insomma da non sottovalutare. E poi la facilità, è una tecnica veramente molto facile, quindi basta mettere le carni, i pesci, i prodotti dentro al contenitore, possono essere interi, a pezzi, bastano pochissimi condimenti e le proprietà organolettiche vengono esaltate al massimo proprio per questo tipo di cottura. Quindi sono anche cotture che si possono fare molto semplici, ma che danno normalmente un grande risultato, quindi come profumo, come gusto, quindi qualcosa che normalmente è molto soddisfacente. Senti, quando tu hai così cucinato in lavastoviglie, poi hai proposto ai tuoi amici, non so a chi, le tue pietanze, quando hai rivelato che sono state cotte, prima o dopo averle assaggiate? La prima volta naturalmente dopo, come ho fatto ad esempio anche per le bucce, per alcuni come esperimenti. Si fa, mi perdoni gli ascoltatori, però lo dico, con la carne di cavallo, perché c'è sempre un pregiudizio, un preconcetto, poi rispetto chi non vuole, questo è un altro discorso. E però normalmente è una cosa che si dice dopo, perché se la dici prima, come anche di altri animali che sono abituati a vedere in un altro modo, parlo di culture diverse dalla nostra, non lo vuoi mai saper prima, perché sì, non ci riesci. Soprattutto, no? Con la lavastoviglie c'è un forte pregiudizio iniziale, ma sì, che è normale che ci sia, perché siamo cresciuti con l'idea che è un elettrodomestico per lavare i piatti. Sì, certo. E quindi associarlo anche a un forno, insomma, non è subito semplice. Quindi il mio consiglio è di provare, perché poi appunto i benefici sono veramente tantissimi. Anche la consistenza delle carni, dici, è molto molto più giusta, e quindi non si spappolano, non si beh aprono. Più che altro, non, ad esempio per quanto riguarda le carni, non diventano grigie, rimangono rosate, non perdono la naturale succulenza, non perdono i succhi, non si denaturano le proteine, cosa assolutamente importante anche proprio per la salute. Una cosa ovviamente da sottolineare: gli ingredienti devono essere di alta qualità, quindi non pensiamo di cuocere nella lavastoviglie qualcosa che stiamo per buttare via, perché ne esaltiamo al massimo le qualità, quindi nel bene e nel male. Quindi ecco, quindi ingredienti freschissimi, sì, questo è fondamentale. Vedi, vedere le cose da un altro punto di vista è molto interessante, cioè vedere la lavastoviglie come un forno e non come soltanto la lavastoviglie, vedere un film come un piatto e non soltanto come film to cure. Marco Lombardi, buona domenica. Buona domenica a voi, buongiorno. Marco Lombardi, autore di cinegustologia.it. Anche qui Laura Lisa Casali non conosceva questo blog, l'ha scoperto, e adesso ha cominciato lei da sola ad associare dei film che ha visto a dei piatti, quindi poi vi farete concorrenza. Allora, cos'è la cinegustologia? Dopo aver sentito l'intervento della collega sul cuocere in lavastoviglie, mi sembra una cosa assolutamente normale a questo punto. Certo, lo è. Persino banale, ecco. No, ma nasce da un cortocircuito delle mie due grandi passioni e competenze, che sono il cinema e la tavola, ed è una considerazione banale che tutti quanti noi, quando andiamo a vedere un film, viene istintivo raccontarlo come se fosse qualcosa davvero da mangiare, con delle sinestesie tipo è dolce, amaro, è morbido, è tenero, è duro, è acido, eccetera. E questo perché abbiamo bisogno istintivamente di dare una ricchezza maggiore a quello che di solito diciamo dei film che finiscono per essere raccontati in maniera un po' troppo asettica. Ecco, lo associamo a qualcosa che ci appartiene in qualche modo, no? Esattamente, e del resto poi è la stessa cosa che si fa col linguaggio, poi dipende naturalmente da quanta cucina ci appartiene, quindi come da quanti termini della lingua italiana conosciamo, quindi da lì poi ci sarà una maggiore o minore ricchezza, però è un alfabeto che apprendiamo prima ancora dell'alfabeto normale, da piccoli, appena nati, perché l'alimentazione ci appartiene dal primo giorno della nostra vita, anche addirittura in fase prenatale, quindi veramente è un qualche cosa di profondo. E quindi io ho portato alle estreme conseguenze questo discorso e ogni film provo ad associarlo in maniera del tutto soggettiva a un piatto, un vino. Dico in maniera soggettiva perché poi l'obiettivo della cinegustologia, oltre a essere un divertimento e anche un approfondimento piuttosto serio sul linguaggio e sulla critica, è quello di far esplodere, far vedere quanto il sentire di ciascuno di noi è assolutamente diverso rispetto a un film, rispetto, si potrebbe anche poi estendere a brani musicali, alla letteratura, eccetera. Se noi raccontiamo un film in maniera canonica, finiamo probabilmente per dire un po' tutti le stesse cose. Se invece facciamo questo genere di associazioni con piatti, con vini o quant'altro, sicuramente viene fuori la nostra pancia in senso metaforico, ma non solo, e quindi finiamo per veramente esplicitare e comunicare un sentire assolutamente nostro e personale. Ecco, funziona anche un po' il discorso contrario, eh? Qualcuno vede un film che magari così lo cattura in modo particolare, legge la tua recensione, vede il piatto qui associato e se lo va a preparare, no? Perché funziona anche così, uno può fare esattamente questo, l'inverso. Non a caso io organizzo anche li chiamo i ceneforum, delle cene in vari ristoranti fra Roma e Napoli, dove lo chef, in relazione proprio degli input che io gli do su, non so, c'è la serata su Fellini, scelgo 4 film, ogni film è associato a profumi, sapori e consistenze, vengono ricreati 4 piatti che sono in pratica l'alter ego, secondo me, di quei film. Quindi assolutamente il cucinare dopo o te lo fa qualcun altro in un ristorante, nel mio caso viene meglio perché sono molto bravo a mangiare e molto meno a cucinare, oppure lo si può fare a casa, insomma, se uno lo si potrebbe anche cucinare nella lavastoviglie. Ma invitiamo tutti Lisa Casali a casa, cucina lei. Allora, anche con gli avanzi è bravissima, per cui non spendiamo neanche tanto. Facciamo degli esempi, va? Allora, io soprattutto ho preso 3 film come esempio, un film conosciuto, già uscito, vincitore anche di un premio Oscar, poi, anzi più di uno immagino, non mi ricordo più quanti, e poi un film uscito da pochissimo e uno che dovrà uscire. Quindi cominciamo con Il discorso del re. A mio marito si richiede di parlare in pubblico. Ricevuto. Forse dovrebbe cambiare lavoro. E se mio marito fosse il re? Un po' difficile cambiare lavoro in quel caso, Marco Lombardi. Allora, il discorso del re a quale... Tu l'hai associato a qualcosa che io amo in modo particolare, fra l'altro. Non l'ho scelto apposta, e l'ho scoperto leggendo la tua recensione. Che... Ecco, magari mettiamo fuori campo per dirla col cinema, la marca del prodotto. No, che beh, puoi anche dirlo. Ma sì, perché va bene, cioè non è pubblicità. Alla fine l'associazione, uno va sul sito, la legge. Dunque, io oltretutto l'associazione l'ho fatta nei giorni di Identità Golose a Milano. Avevo assaggiato questo Berlucchi 61, un rosé. E quindi mi è venuto immediatamente, avevo visto il discorso era proprio in quei giorni e mi è venuto immediatamente da associarlo perché innanzitutto da un punto di vista cromatico, perché anche la cucina addirittura la cucina Kaiseki, quella giapponese, si dice che si mangia prima con gli occhi, quindi l'aspetto visivo è il primo, e questo rosa antico mi dava l'idea veramente di questa atmosfera classica, come classico anche il film, suscitato appunto dal film e anche il periodo storico. Poi comunque c'è una freschezza, perché Colin Firth, Giorgio VI, ha al suo interno una tale voglia di emergere e insieme a lui, quindi sconfiggere la balbuzia, che insieme a lui anche far resuscitare il suo popolo contro il nazismo, che c'è un'aromaticità, una freschezza, c'è proprio l'effervescenza delle bollicine, secondo me, una vitalità enorme, una voglia proprio di vittoria, quella sana. E poi però, insomma, il film ha un'acidità incredibile, che è l'acidità appunto di questo Berlucchi 61 Rosé, ma alla fine poi di tante altre bollicine, che è proprio l'acidità di un periodo storico difficilissimo ed è l'acidità della sua lotta proprio contro la balbuzia. Quindi io me lo degusterei in questo modo, il discorso del re. Bel film. Benissimo, andiamo a qualcosa di più recente, da pochissimo uscito, quello che so sull'amore di Gabriele Muccino. Tu eri un grande, grande calciatore. Rayer si coordina per una rovesciata. Ora che non giochi più a calcio, cosa fai di bello? Siete su CSI Sports. Con un rigore all'ultimo secondo, oggi la... Questa è la società emittente della sua carta di credito. Se George Dreyer non è più a questo numero, premere 1. Se George Dreyer è deceduto, premere 2. Pensi mai a come sarebbe stato se non avessi incasinato tutto? Ci penso sempre, George. Sei stata la cosa più entusiasmante che mi sia capitata. Eccolo qua, quello che so sull'amore, ma non sappiamo sulla tua associazione, Marco. Io qui sono andato, beh, innanzitutto sono uno stremo in 3 o 4 in Italia a difendere il povero Gabriele Muccino, che fa sempre dei grandi incassi, ma secondo me è uno dei pochi registi veri che abbiamo in Italia, soprattutto quando gli fanno dirigere delle storie non sue, come sta succedendo nei suoi film americani. Questa è una storiellina di fatto piuttosto banale, semplice, molto popolare e commerciale. Però Muccino sa dirigere molto bene gli attori dall'ultimo bacio in avanti e anche prima. E quindi io questo film l'ho sentito come le sarde in Saor, che sono un piatto veneto, sardine, cipolla e uvetta, da consumarsi e poi creare una specie di agrodolce, no? Ecco, sì. Assolutamente, l'agrodolce, poi non vedere persone per almeno una giornata, dipende dal tipo di cipolla, naturalmente. E comunque questo piatto c'ha al suo interno la enorme dolcezza che è data non solo dall'uvetta ma anche dalle sarde, che comunque hanno delle note dolciastre, e anche dalla cipolla, se è una cipolla appunto leggera e dolce, che è la dolcezza di questa commedia romantica, anche se lui ha detto che non è romantica, ma lo è, e quindi insomma è anche di un lieto fine, non lietissimo ma comunque sufficientemente rasserenante. Però il film c'ha al suo interno, perché comunque la storia di un uomo insomma che ha perduto il successo e sta cercando di riconquistare la famiglia perduta, ha una sua spinosità, quindi a livello di consistenza si sentono delle piccole spine che penetrano appunto all'interno di una vita apparentemente ok, e c'è anche insomma un po' di acidità che insomma può essere data da un leggero punta di aceto che è all'interno del piatto, e poi dalla cipolla, la cui croccantezza invece dà l'ultimo elemento, che è quello dell'ironia, che comunque è presente in tutto. Ecco, l'acquolina in bocca, devo dire la verità, perché poi a sentire, a associare, poi lo facciamo automaticamente. Il riposo del guerriero. Con Marco Lombardi, autore di Cinegustologia. Intanto la nostra Lisa Casari sta ascoltando, perché ha già appunto, sta facendo anche le sue associazioni. Chiudiamo con War Bodies, che è un film che uscirà e che parla di vampiri. Mi piacerebbe potermi presentare, ma sono morto e non è divertente. Lui è il mio migliore amico, a volte facciamo delle belle conversazioni. Quelli li chiamo soti, mangiano qualunque cosa abbia un cuore. Cioè, lo faccio anch'io, ma almeno sono un po' combattuto. Ma sai che io non detesto questi film, ti dico la verità. Però questo, non so, il trailer mi ha incuriosito. Non l'ho visto, non è ancora uscito, ma magari tu l'hai già visto invece per forza, se non potevi associarlo, Marco. Sì, assolutamente. L'ho visto in un'anteprima stampa romana, sono totalmente d'accordo con te. Io detesto Twilight. Esatto, bravo, di quello parlavo. Intorni, per cui ho visto questo film con tutti i pregiudizi del mondo, e invece qui, a differenza di Twilight che si prende troppo sul serio, c'è l'ironia. Molta ironia, già, ecco, sì. E si sente già nel trailer che sì. Mandato in onda, che è proprio l'inizio del film, quindi questa voce off del protagonista che si prende per i fondelli e contesta la propria vita da zombie. Quindi poi insomma c'è sentimento, c'è retorica, tutto quanto, ma sin dall'inizio c'è una grandissima ironia che quindi dà sostegno alla storia. E quindi insomma secondo me questo film, e mi sembra anche in assoluto una delle migliori associazioni cinegustologiche mai fatte, è un tortino al cioccolato che si trova ovunque, inflazionato, lo fanno veramente tutti, anche perché è molto facile. Sì, ormai li trovi surgelati, li metti in forno e sono pronti, ecco. Esattamente, diciamolo. Tante volte non lo si dice, non lo si racconta, un po' come la carne fatta in lavastoviglie. E allora il tortino fuori lo vedi, è un po' triste, poi spesso anche leggermente secchino se non è fatto in maniera perfetta, c'è questo una cromaticità cupa e si intravede una crepa di solito e quindi mi ha dato un'idea veramente quasi di morte, ecco, lugubre, che è la condizione di questo zombie. E poi però lo si apre e all'interno esce tutta la cremosità, tutta la dolcezza del mondo, che è quella, la storia d'amore che si creerà tra questo zombie e questa bellissima ragazza. Però la dolcezza, se è usato come si deve usare il cioccolato fondente, c'è anche un amaro, perché comunque il tutto succede all'interno di una terra che è distrutta, c'è stata un'epidemia, sono ormai quasi tutti zombie, pochi vivi si sono barricati all'interno di una specie di cittadella tipo l'ex Berlino, però insomma tutto questo, la dolcezza alla fine prevale, l'amore vince, però di sottofondo, come dicevo prima, il tutto funziona molto bene perché c'è ironia e quindi c'è una specie di speziatura, che secondo me sono le spezie che danno l'ironia ai film, e quindi potrebbe essere la cannella che molto spesso si mette all'interno del tortino, sì, per dare questo tocco un po' più, questa forza. Esotico energia. Anche. Allora, grazie davvero Marco Lombardi, cinegustologia.it, la nostra Lisa Casali ha visto Django ieri, giusto? Puoi parlare, perché non fare timorosissima. No, sono molto divertita da queste associazioni e mi piace, quindi... E hai associato il film di Tarantino a? Beh, Splatter, come tutti i film di Tarantino, quindi una matriciana con tanto sugo. Ecco, di quella che ti macchia completamente appena la metti. Quindi se vuoi fare questa associazione, sei libero, Marco Lombardi. Ciao. È meravigliosa. Buona domenica, ciao. Cinegustologia.it. Allora, arrivano un po' di messaggi. Anna Ginger su Facebook dice, ti racconta questo, che negli anni 70 negli Stati Uniti c'era il salmon in dishwasher, ovvero il salmone nella lavastoviglie, ed è un classico che tu non conoscevi, vedi? Questo, il salmone, questo qui degli anni 70 non lo conoscevo, ma come ti dicevo all'inizio, quando ho cominciato a fare le mie ricerche, ho trovato in rete un po' di esperimenti, lato sicurezza lasciava un po' a desiderare, nessuno da quello che mi risulta si fosse mai cimentato a fare le analisi e partire da questo per poi a ritroso trovare il modo migliore per quindi sfruttare i cicli di lavaggio per cuocere, quindi questo forse è l'unico mio contributo, sicuramente era qualcosa di già creato. Io poi quello che ho fatto appunto è stato associare ad ogni ciclo di lavaggio un alimento, infatti tipo il mio libro non segue tanto la classica divisione antipasti primi e secondi, ma è diviso in ciclo di lavaggio eco, normale, intensivo e rapido. Ecco, diciamo una cosa, siccome c'è un messaggio che dice, ma sapevo, diceva poi Anna, dice, non so, io sapevo, ho sentito dire che per essere sicuri dal punto di vista sanitario la carne di pollo deve raggiungere una temperatura di almeno 80 gradi. E, allora, ammesso che sia così, c'è sempre il lavaggio, quello delle pentole molto sporche. Sì, diciamo che la massima temperatura del lavastoviglie di nuovo lavaggio, di nuova generazione, è 75 gradi. In realtà, se un alimento è di grande qualità, quindi è fresco, non ci sono rischi, diciamo, con l'assunzione, quindi anche a 75 gradi non c'è nessun tipo di rischio, ecco, quindi una volta rispettata l'ermeticità che dicevamo all'inizio, veramente ci sono solo benefici. Ecco, qualcuno invece si lamenta e dice non ho la lavastoviglie, ecco, cui non questo posso. È un problema più strutturale. Ecco, poi chiedete le ricette, ma non è questo non è la trasmissione per dare le ricette, diciamo che se andate sul mio blog ecocucina.org, sì, le trovate. Appunto, era solo l'idea appunto di vedere la lavastoviglie sotto un altro punto di vista. Prima del GR abbiamo ancora un minuto per così dare un'opinione anche a Carmen, che dice: non mi importa niente del cibo, sono normale, punto di domanda, perché lei si sta domandando, dice, beh, a questo punto, visto che si parla di gastronomia dappertutto, forse non sono normale io, lei dice. Ma rigirerei la domanda a Carmen, tipo, ti importa della tua salute, del tuo benessere? Credo che ci sia un rapporto veramente molto stretto, ecco, perché tra il cibo non è appunto soltanto cucina in questo genere, ma è anche il cibo di tutti i giorni, quello che prepariamo in modo abitudinario e abitualmente. Che sì, deve seguire delle regole anche. So, cioè, per dire, il cake design è un'arte, sicuramente, certo, non è legata al proprio benessere quotidiano. C'è un modo di cucinare che invece può veramente contribuire tanto alla nostra salute. Io ad esempio cerco di unire a salute, ambiente e ovviamente la passione per il cibo, il gusto, ecco, anche senso, certo. Sì, quindi non so, ad esempio anche privilegiare prodotti vegetali o privilegiare cotture che esaltino al massimo le proprietà organolettiche ma anche le proprietà nutritive, quindi una cottura abbastanza. C'è un ingrediente che eviti assolutamente tu perché ritieni che non faccia bene alla salute in qualche modo? Nel mio caso io cerco di ad esempio di evitare il più possibile di consumare carne. di ogni tipo, sì. Quindi adesso parlavamo proprio della carne, è un po' un'eccezione, diciamo, per la cucina e lavastoviglie, perché è il prodotto che veramente viene meglio. Nel mio quotidiano cerco di consumarla veramente il meno possibile, per motivi ambientali, salutistici e poi volendo anche etici. Però certo, però insomma è un buon approccio sicuramente, insomma non abusarne, questo è il senso. Il riposo del guerriero. Le 11:07 con Lisa Casali, stiamo parlando di gusto, dare gusto alla vita, cucinando anche in modo divertente, ma parlando anche di cucina e di gastronomia in ambiti diversi. Abbiamo parlato di cucina e filosofia, abbiamo parlato di cinema e piatti, e tra poco parleremo di televisione, immancabile ovviamente, visto che da lì è molto partito, e poi anche di modi diversi di cucinare. Allora, torniamo alla lavastoviglie e poi lo lasceremo, perché le domande chiaramente sono tantissime. Te ne faccio una sola: con o senza asciugatura? con. Quindi sì, le mie ricette sono proprio studiate per sfruttare dall'inizio alla fine i cicli di lavaggio, quindi ecco. Anche l'asciugatura. Non va aperta a metà e tolto il prodotto, no. Giusto. La cosa molto carina è che potete servire le pietanze poi in monoporzione, ognuno nella sua confezione di vetro. Giusto? Sì, questa è una cosa molto comoda, infatti se si hanno anche tanti ospiti, avere la monoporzione, quindi il vasetto singolo, può essere pratico, poi anche per portarlo in ufficio. A me capita la sera, mentre lavo i piatti, di cuocermi il pranzo per il giorno dopo. Lo puoi magari scaldare un couscous con verdure. Si può scaldare al microonde, immagino. Si può anche scaldare al microonde, alcuni piatti sono buoni, poi anche freddi. Basta togliere via il metallo che c'è intorno al... Basta togliere il tappo. Il tappo, sì. Esatto. Eco Cucina, questo è un libro che arriva prima però di questo della lavastoviglie. No, questo vero? È il mio ultimo libro. Ah, ultimo, scusami. Sì. Ed è un po', se vuoi, una raccolta anche di quello che ho fatto quest'ultimo anno e i contributi dei miei lettori, quindi del mio blog Eco Cucina, quindi omonimo, ed è un po' un manuale antispreco per imparare a fare meglio la spesa, sprecare meno... quindi quando in dispensa, quando si conserva e quando si cucina. Cos'è la cosa che sprechiamo di più secondo te? Credo che sia il pane, questo da dati proprio, dati ufficiali, e se ne butta via tantissimo, anche se forse è uno degli ingredienti più facili da usare, da sfruttare, anche quando è secco, quindi dal banale pan grattato, ma ci sono tantissimi piatti. Mi ricordo io le domeniche passate a casa a grattugiare su grattugia il pane secco che mia madre teneva, sempre tiene, penso ancora, per fare poi il pan grattato. Ecco, adesso servirà. Magari il paradosso è che ne buttiamo chili e poi lo compriamo già pronto il pan grattato. È vero. Hai però ragione. Ecco, si butta tantissimo. Io lo anche... compro solo perché non ho mai quello secco, ne compro solo per me, cioè, per quando mangio so quanto ne userò, piuttosto rimango senza. E poi vabbè, buttiamo tantissimi anche scarti di frutta e verdura, ci sono tantissimi ortaggi che hanno addirittura uno scarto superiore alla parte nobile, dai carciofi ad esempio ne buttiamo via il 70%, il cavolo ne buttiamo quasi la metà, asparagi, sono veramente tanti, e quello che io ho scoperto un po', insomma, che ho studiato in questi anni è stato come trasformarli in piatti, piatti anche in grado di nobilitarli, quindi che non vanno a sfigurare anche se avete ospiti, e quindi piatti anche naturalmente adatti alla cucina di tutti i giorni, non troppo grassi, equilibrati, ed è possibile farlo appunto anche sfruttando le bucce, le gambe, le foglie, le parti meno nobili. Anche perché le paghi, quando le pesi pesano anche quelle. Infatti su un euro di carciofi pensiamo che 70 centesimi li stiamo buttando via. Quindi tu dici, santo oggi, tanto domani, e poi anche un modo giusto per approcciarsi, è un fatto anche mentale. No? E poi di non commestibile nei prodotti italiani non c'è praticamente nulla, questa è stata un po' la mia scoperta dopo anni e anni e anni di sperimentazione. Allora, tutti possiamo cucinare e tutto possiamo mangiare. E i miei amici sono tutti vivi. Questo immagino di sì. Antonella Di Lorenzo, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. Antonella Di Lorenzo ha scritto invece Cuochi, Sorrisi e TV, edito da Editori Internazionali Riuniti, perché anche la TV, insomma, la TV è stata un po' complice, no, in questo, Antonella? Sicuramente, insomma. Quello che io ho voluto sottolineare nel mio libro è che sicuramente la cucina in televisione non è esplosa negli ultimi anni. Ha diciamo un'origine molto molto antica, che nasce appunto con la televisione stessa, con il tubo catodico. Infatti il primo programma di cucina risale agli anni 50, sicuramente al 1957, alla conduzione di Mario Soldati con Viaggio nella Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini. Nel corso degli anni la televisione, o meglio la cucina, non ha mai abbandonato la televisione. Ci sono stati nel corso degli anni molti programmi di cucina, negli anni 70, negli anni 80 e negli anni 90, sino insomma ad arrivare ad oggi. Ecco, quindi tu dici è qualcosa che c'è sempre stato. Chiaro che cambiano poi i modi e i metodi, perché cambiano, insomma, cambia il tempo. Ecco, sono tempi diversi. Ricordo per esempio una famosissima casalinga, diciamo così, cantante casalinga, alle prese con La Tavola. Ed eccomi a preparare insieme a voi riso e verze. Naturalmente per prepararlo servono delle verze. Io ne prenderei, come vedete, qui era uno molto grande, ne basta metà. Va tolta la verza, le foglie, vanno tolte le foglie più dure, quelle esterne. Poi, ecco la voce di Vilma De Angelis che insegnava a fare i suoi piatti, tra virgolette, no Antonella? Sì, sì, sì. Vilma De Angelis è stata definita la regina delle tre massaie, come l'ho anche insomma sottolineato nel mio libro. E lei per quasi 20 anni, quindi dal 1979 sino al 1995, ha entrato nelle case degli italiani, ha insegnato alle massaie, alle casalinghe a cucinare. Lei è stata la figura per eccellenza, una mamma, una nonna, una zia che ha educato ed insegnato appunto a cucinare. E, diciamo che nel corso degli anni, poi dal 79 al 95, ha anche avuto lei delle trasformazioni, ha dovuto anche lei poi adattarsi al cambiamento della televisione e della società. Quindi le sue ricette proposte in televisione sono cambiate nel corso degli anni. Sicuramente negli anni 80 c'è stato il boom, è stata appunto, come dicevo, la regina, quindi ha proposto dei prodotti e degli ingredienti legati molto alla TV commerciale. Quindi se ad esempio la televisione, in particolare Tele Monte Carlo, di cui è stata, diciamo, in cui ha lavorato per moltissimi anni, aveva come sponsor una panna in particolare, lei ci introduceva la panna in tutti i piatti, dicendo proponendo alla gente un piatto che senza quella panna non sarebbe stato fare. Chiaro, perché in qualche modo bisognava raccogliere poi fondi per poter anche sostenere questo poi il gioco, e quindi poi le cose sono anche un po' cambiate da questo punto di vista. Mi ricordo, io non mi ricordo perché non ero ancora nato, però all'inizio la televisione aveva insegnato a leggere e scrivere agli italiani, ecco, poi è arrivata Vilma De Angelis e si è insegnato a cucinare. E oggi invece la televisione insegna sia a cucinare, abbiamo i programmi della Clerici per esempio, no? Con delle casalinghe che si sfidano a colpi di frutta e verdura e altro, però invece c'è anche un modo di cucinare che dice: guarda che per cucinare bisogna avere del talento. Gli aspiranti chef devono dimostrare tutta la loro passione in cucina. MasterChef è la mia opportunità. Io voglio diventare il primo MasterChef d'Italia. Voglio cambiare la mia vita e questa è la mia grande occasione. Ecco, quindi il reality MasterChef, chiamiamolo reality, ma nel senso che si sfidano per però delle persone che, è vero, non sono cuochi di professione, però sono molto talentuosi, Antonella. Sì, MasterChef ha rivoluzionato il modo di intendere la telecucina. E se si è passati sicuramente da programmi tutorial, quindi con spiegazione di una ricetta e degli ingredienti, a dimostrare davvero quello che può succedere nelle cucine di un ristorante. Poi MasterChef unisce sia la preparazione della ricetta ma anche la presentazione. Come cito Marco Lombardi, diceva prima nel suo intervento, la cucina si mangia prima con gli occhi. Quindi poter presentare un piatto in un ristorante in un certo modo, diciamo che sottolinea anche quell'aspetto glamour che ha, insomma, è fondamentale comunque, certo, che quindi insomma alla fine dalla cucina veramente per tutti a quella per pochi, cioè per tutti come utenti ma per pochi per farla. Grazie Antonella Di Lorenzo, vi ricordo il libro Cuochi, Sorrisi e TV. Grazie ancora, buona domenica. Grazie a voi. Allora Lisa, abbiamo finito con te e volevo solo dirti questo, Ego in Ratatouille, il critico dice, Ratatouille il concetto è lo chef che non c'è più, che è morto, dice tutti possono cucinare, Ego invece dice sì, è vero, però bisogna avere, tu da quale parte stai? Credo, proprio anche ieri se ne parlava da Davide Paolini, sì. Chef si nasce o si diventa, Concordo anche con la risposta che gli ha dato Carlo Cracco, che comunque si può imparare, si può crescere, e credo che insomma, quindi sono per la risposta positiva, che comunque è un talento che va coltivato, ecco, se c'è va coltivato, perché insomma non ci si può improvvisare, si come può avere più cose. O meno talento, ma sicuramente si può arrivare a dei buonissimi risultati. Ecco, intanto vi ricordo anche Valentina Furlanetto qui su Radio 24, c'è un nuovo programma che si intitola Indovina chi viene a cena, e proprio raccontando le ricette si parla delle differenze, no, culturali, e anche dei pregiudizi purtroppo che ci sono, e quindi vi ricordo ogni sabato su Radio 24. E poi c'è anche una cosa carina che un'autrice televisiva ha scritto, ve la volevo citare, si chiama Cristina Maurelli, e ha scritto La ricetta della felicità, ovvero Giro del mondo in tante cucine. È uno spettacolo che si vedrà a teatro, dove c'è un cuoco di un importante ristorante che è alla ricerca di una ricetta davvero speciale, la ricetta della felicità appunto, e quindi decide di compiere un viaggio intorno al mondo per trovarla, e scopre i pregiudizi che arrivano proprio da anche culinari, no? che ci possono essere. Tu ne hai qualche, c'è qualcosa che non mangi assolutamente per pregiudizio e che non hai mai voluto assaggiare, o hai assaggiato proprio tutto? In realtà almeno una volta assaggio qualunque cosa, quindi mi è capitato di assaggiare anche le cose più assurde, soprattutto in Cina. Sì, sei stata? Sono stata, quindi dalla medusa che avevo studiato all'università in dei vasi sotto dei liquidi, e in realtà ho scoperto che ha un gusto particolare, sorprendente, anche se non mi è mai capitato di cucinarla, ma... Niente escluso, e quindi in realtà sarei dell'idea che qualunque cosa vada assaggiata. Almeno assaggiata. La medusa e la lavastoviglie sarà il prossimo libro. Allora, cucinaeco.wordpress.com è il tuo blog. Se avete qualche domanda da fare, potete scrivere direttamente a Lisa Casali, che è molto disponibile e simpatica. E poi ti vediamo in TV. Grazie ancora. Grazie a voi. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. È il momento di divertirci e imparare sicuramente. Andrea Ligabue, ciao, buona giornata. Ciao Stefano e ciao a tutti. Allora, visto che siamo in tema culinario oggi, volevo dire anche questo, che prima di Natale una ragazzina è riuscita, grazie a un video pubblicato su YouTube, a convincere Hasbro, che è un colosso nel mondo dei giochi, a costruire i nuovi forni con colori che non siano destinati a un pubblico esclusivamente femminile, perché di solito i forni o sono viola o sono rosa. Siccome il fratello di questa ragazzina tredicenne voleva per Natale un forno per giocare, però insomma si lamentava del fatto che erano tutti destinati alle bambine, almeno come colori, allora la sorella ha fatto questo video petizione che ha avuto molto seguito, e così Hasbro adesso in poi produrrà forni per tutti, non soltanto per le bambine, ma appunto senza differenze di genere, perché i giochi sono per tutti, di qualunque tipo siano, giusto? Giusto, confermo. I giochi devono essere adatti a tutti, c'è un gioco per ogni persona, e diciamo fortunatamente ci sono giochi per tutti. Allora, a parte il forno, noi cominciamo a cucinare invece aprendo un ristorante. Come funziona? Parliamo oggi di Ristorante Italia, un gioco che è stato fatto da un editore italiano e da degli autori italiani, e con un nome tutto italiano, però è una produzione che è andata anche all'estero, quindi una produzione internazionale. Il gioco è molto divertente e adatto a tutta la famiglia. Tra l'altro il regolamento presenta una versione base proprio adatta a tutti, una versione più avanzata che può essere interessante anche per i giocatori più appassionati. Nel corso della partita i giocatori devono gestire un ristorante andando alla ricerca delle ricette più interessanti e degli ingredienti per prepararle. E dovranno nel corso della partita creare il menù del loro ristorante, composto da un antipasto, un primo, un secondo e un dessert. E ovviamente ogni ricetta deve essere abbinata al vino giusto. Ad esempio ci potrebbero essere gli scampi alla diavola, che devono essere preparati e abbinati a un Müller Thurgau, o la costata di manzo alla fiorentina con il Chianti. E nel corso diciamo della partita si svolgono quattro fasi in cui i giocatori acquistano ricette, e alla fine di queste fasi diciamo i ristoranti vengono visitati da un esperto, da un critico, che giudicherà queste ricette in base al loro valore, al loro prestigio, e alla fine diciamo il cuoco migliore, quello che è riuscito a creare il ristorante migliore, vincerà la partita. Ecco, ma questo critico si basa su delle regole, sono gli stessi giocatori che faranno anche da critico verso gli altri? Diciamo che il critico è gestito in maniera automatica, cioè sì. Le ricette hanno sia un valore economico che un valore in punti prestigio e diciamo il critico premierà chi ha le ricette con più prestigio, quindi diciamo non c'è una fase interattiva in cui i giocatori giudicano le ricette degli altri. Chiaro, anche perché sennò si metterebbero in difficoltà gli avversari e quindi uno vince ecco, per la forza. La curiosità sì. Carina in questo gioco è che chi acquista il gioco può collegarsi al sito dell'editore solo e inserendo i codici del gioco e scaricare il vero ricettario di queste delle ricette su cui si sono basati gli autori nel preparare il gioco, quindi diciamo è un'iniziativa simpatica dell'editore per dare un qualcosa in più a chi possiede il gioco. Lo regaleremo al nostro gastronauta. Ristorante Italia, così si intitola. Poi abbiamo invece un gioco molto più semplice dedicato ai bambini anche molto piccoli, lo Chef Pasticcione. Sì, lo Chef Pasticcione è un gioco davvero simpatico perché combina diciamo una componente tipica dei giochi da tavolo, quindi diciamo una strategia, ma anche con la necessità di essere, di avere capacità manuali, essere abili manualmente, perché nel corso della partita i giocatori svilupperanno delle ricette e per portare a termine queste ricette dovranno riuscire a versare da dei bussolotti gli ingredienti dentro il loro pentolino, ci sono dei veri pentolini nella scatola dei giochi, dovranno riuscire a versarli nella quantità giusta richiesta dalla ricetta. Versarne troppi o versare troppo sale nella ricetta comporta il fallimento della ricetta che deve venire scartata. Interessante anche come vengono preparate le crepe, che sono un pezzo di cartone che viene appoggiato sopra queste pentoline, i giocatori devono riuscire a lanciarlo per aria e farlo atterrare nel verso giusto. Certo. Quindi diciamo un gioco che mischia caratteristiche tipiche del gioco da tavolo con questa componente di destrezza che è veramente divertente, rende le partite proprio appassionanti. Ecco. Anche questo è edito in Italia da un editore italiano, Giochi Uniti, quindi si trova anche con regolamenti in italiano. Si chiama lo Chef Pasticcione. Ecco, fossero le crepe rigide come il cartone, cioè per girarle è veramente complicato, sì, come far fare nella realtà. È proprio difficile lanciarle per aria e farle atterrare nel verso giusto, cioè uno può metterci anche 4, 5, 6 tentativi. Anche perché è casuale. Vignos, invece, un gioco sui vini, immagino, dal titolo. Vignos è un gioco che diciamo ha, ecco qua parliamo di gioco per appassionati di giochi, perché è un gioco abbastanza complesso fatto da un autore portoghese ma da un editore italiano ed è un gioco che parla dei vini portoghesi, quindi ricrea la mappa del Portogallo con le varie zone vinicole e i giocatori devono gestire, creare un'azienda vinicola e produrre i vini migliori e cercarli o di vendere al mercato oppure di conservarne delle bottiglie per la gara nazionale che premia i migliori vini che c'è ogni anno. Quindi i giocatori dovranno decidere su quali vini puntare, sviluppare la loro azienda agricola e poi cercare di ottenere delle bottiglie di qualità da portare al concorso. Ecco, molto, sarebbe molto interessante come gioco, un gioco di strategia anche piuttosto complesso, però veramente bello e io ad esempio che non conoscevo i vini portoghesi, giocandolo mi sono fatto un'idea delle varie varietà vinicole che ci sono in Portogallo. A parte il Porto, appunto, che è quello che conoscono tutti. E sarebbe interessante renderlo invece italiano, chissà che accadrà prima o poi. Mamma mia, chiudiamo con questo titolo. Mamma mia è un gioco di carte molto semplice, diciamo basato sulla memoria. I giocatori devono creare delle pizze e la cosa simpatica è che praticamente c'è una pila al centro del tavolo in cui man mano tutti i giocatori accumulano gli ingredienti, cioè nel proprio turno un giocatore gioca degli ingredienti sopra questa pila oppure gioca una delle sue pizze, ogni giocatore ne ha davanti tre e ne può aggiungere durante la partita altre in questa pila. Finita la manche, cioè quando sono finite le carte ingredienti, la pila viene girata e gli ingredienti vengono scoperti uno alla volta. Quando appare una pizza si guarda se sulla tavola sono già presenti gli ingredienti sufficienti per farla, nel quel caso il giocatore ottiene la sua pizza, la crea e fa punti, se invece mancano degli ingredienti la pizza viene scartata, quindi cosa succede? Nel corso della partita i giocatori si devono ricordare man mano che ingredienti ci sono sotto e che pizze vengono giocate per poter giocare le loro quando sono sicuri che nella seconda fase saranno presenti gli ingredienti necessari. È un gioco adatto a tutta la famiglia che diciamo sviluppa molto la memoria, perché un giocatore si deve ricordare la sequenza degli ingredienti e le pizze giocate. Ecco, io perderei sempre, chiaramente, perché non riesco mai a ricordare le carte che sono state giocate in una qualunque partita di gioco di carte. Grazie Andrea Ligabue, davvero, vi ricordo tutte le vostre domande sul suo sito che è ludologo.com. A domenica prossima. Grazie mille, a domenica Stefano e ciao a tutti. Ciao, grazie. Per quanto riguarda i videogiochi, invece, oggi vi parlo di un videogioco puro, ma non per questo poco interessante, anzi... Game over. Figlio di Sparda. Figlio di chi? Ti abbiamo scovato. È appena uscito per Xbox, PlayStation 3 e Windows PC DMC, Devil May Cry, e questa volta il protagonista, Dante, è molto diverso dal Dante che l'ha preceduto nei 5 episodi precedenti. Moro, più giovane, più asciutto, più strafottente, più donnaiolo e più simpatico. Chi sei? Che cosa vuoi? Sei stato imprudente. Hai lasciato una traccia. Ti sta seguendo. Di che parli? Chi mi dà la caccia? Un demone cacciatore. È qui! In Devil May Cry la storia si ripete, angeli contro demoni, ma la cosa interessante è che i demoni questa volta sono rappresentati da quelli che sono i veri demoni della nostra vita reale, ovvero le questioni finanziarie. Sì, alla chiusura della borsa. No, non può avere altro tempo. Conosce le condizioni e le conseguenze. No, non è una minaccia velata. È una minaccia diretta. Se non farà come dico, l'economia collasserà per colpa sua. Farò sì che lei sia privato del potere, umiliato e disprezzato. Tutto chiaro? Beh, allora venerdì. Buonanotte, signor Presidente. Già, il mondo crollerà se quei demoni riusciranno nel loro intento di far indebitare in modo insostenibile le potenze del globo, ma ci penseranno gli angeli a risolvere la situazione. Un angelo in particolare, Dante appunto, che aiutato dal fratello Virgil si scoprirà essere figlio di Eva e di Sparda, due angeli caduti nelle mani dei demoni che, da buoni genitori, sono riusciti a salvare i figli portandoli nel mondo reale e facendoli confondere fra la folla degli umani. Presto possiederò tutto il possedibile. Controllerò il mondo attraverso il debito. Ho il potere assoluto. Peccato che le cose si stiano mettendo così male nel mondo, e l'allusione alla realtà sociale attuale è chiara, che due angeli decidono di recuperare la loro identità per sconfiggere il demone. Cosa c'è? Cosa? Che c'è? Una questione irrisolta. Una questione? Quale? Il figlio del traditore Sparda. Dante. Lui. Così sarete catapultati nel limbo, una sorta di realtà parallela nella quale vi troverete a dover combattere demoni spaventosi, infuocati e bavosi, e con l'aiuto della vostra spada magica Rebel, delle vostre pistole Ebony and Ivory, della vostra falce infuocata Arbiter e ai vari poteri magici che vi rendono sì soprannaturali, ma non immortali. È vero, DMC Devil May Cry è il tipico videogioco dove l'azione la fa da padrone, ma l'idea della storia, così vicina ai giorni nostri, la cura della grafica e dell'animazione, l'ottimo doppiaggio e lo sforzo di rendere interessante un videogioco così basico, rendono questo titolo davvero bello. È bello perché lo si gioca tutto d'un fiato, bello perché è molto valido dal punto di vista artistico, bello perché rappresenta il piacere del tipico videogioco rivisitato e arricchito dalla tecnica dei giorni nostri. Buon divertimento. Siamo sulle tue tracce, figlio di Sparda. Ora è solo questione di tempo. Il riposo del guerriero. Il gastronauta. Ciao Davide Porini, buongiorno. Abbiamo fatto le puntate gemelle ieri e oggi, te. Così siamo occupati di una cosa simile, ma perché siamo bombardati e quindi, vabbè. Siamo bombardati da cosa? Dalla cucina, dalla gastronomia che ci bombarda dappertutto. Ah, tu dici che ormai è diventato veramente il tema dominante. Sì, pare di sì. Di cosa ci parli oggi, Davide? Ma ho sentito qua e là, a sbalzoni, come si dice la trasmissione, devo dire che ho sentito che tutti dicono che il cibo la prima cosa si guarda con gli occhi. Sì, è vero, però è anche sì vero che raccontare un cibo, come si può raccontare alla radio, si fa anche sognare. Cioè, raccontare una ricetta, raccontare un piatto, raccontare un prodotto, secondo me è altrettanto affascinante, anzi forse molto di più, perché quando vedo in televisione degli obbrobri e vedo dei saltimbanchi della padella, Mi viene da pensare che forse è meglio raccontare che vedere. Beh, sai, è un po' come quando vedi un film tratto da un libro, no? Se leggi il libro ti immagini quello che vuoi, ti fa sognare, ti piace. Il film invece che ti obbliga a vedere quello che il regista ha voluto può non piacerti affatto, no? Un po' la stessa cosa. Esattamente questo. Anzi, credo che dal racconto molte volte si senta di più il sapore, sì, rispetto a vedere un qualcosa, perché te lo immagini come vuoi. In fondo io dico sempre che il giudizio su un piatto, su un prodotto è soggettivo e non è oggettivo come molti vogliono far credere. Di conseguenza io me lo immagino come voglio, quindi non come vogliono gli altri che mi raccontano magari fino ai dettagli, mi fanno vedere appunto i dettagli. Certo che se uno vuole imparare a fare il cuoco deve vedere, ma non certo in televisione, quindi io credo che debba andare a scuola o debba andare a imparare oppure debba esercitarsi a casa, quindi anche dal punto di vista, chiamiamo così, della docenza, la televisione non è che dà molto di più. Ora io non è che voglia fare una battaglia contro la televisione, perché il viaggio sul Po di Mario Soldati rimane uno degli straordinari. L'abbiamo citato infatti, no, all'inizio. Di come si può raccontare, mentre alcune trasmissioni che vedo in televisione, ho visto in questi ultimi anni, sicuramente non ci insegnano niente. Ho sentito che si è parlato anche di MasterChef. In un certo senso in MasterChef c'è un po' di racconto, e quello secondo me che serve, però come mi dicevano ieri i miei ospiti Bruno Barbieri e Carlo Cracco, non è che una volta che si esce da MasterChef si è dei cuochi, assolutamente no, non è che si diventa cuochi con MasterChef, è un bellissimo, racconto televisivo sulla cucina, ma soprattutto sulle esperienze dei concorrenti su questi loro piani. Certo, perché gioca ovviamente su quello, insomma è anche un po' la differenza, che spiega che va bene cucinare, tutti lo possono fare, ma farlo in un certo modo significa molto impegno e quindi è un po' come cantare, non ti possono cantare, però insomma se vuoi emergere e fare qualcosa di concreto devi impegnarti, studiare e migliorarti e quindi questo tipo di trasmissioni insegnano questo anche. No? Io credo che un viaggio sui cibi, un viaggio sui piatti, un viaggio sulla cucina, un viaggio sui territori si possa benissimo fare in radio, raccontare in radio. E non dico meglio, dico che si può fare in maniera diversa da quello che è la... Anche perché c'è l'immaginazione e quindi questa è la grande... C'è l'immaginazione, credo che sognare... la cosa principale. Guarda, tu con me sfondi una porta aperta, io sono sempre stato contrario alla radio che si vede, per esempio, secondo me la radio è bella sentirla e invece molte vanno anche in onda visivamente, ma toglie un po' tutto qua, insomma è meglio, immaginare. Sono d'accordo con te, perché il contesto è diverso, non lo vivi direttamente, perché tutto al più vuoi vivere con un ospite, ma non puoi vivere in un posto, in un luogo, in una cucina. Esatto, una come invece cucina, l'immaginazione ti permette di fare, no? Per cui è molto più interessante. Grazie. Poetico. Grazie, vero, grazie Davide Porini, sentiamo domenica prossima e sabato col tuo programma, ciao. Allora, prima di Picasso in 24 minuti, qualche minuto non può mancare con la nostra Francesca Dragotto. Senti chi parla. Ciao Francesca, buona domenica. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Tenuta la cuolina in bocca? Beh, l'argomento di oggi è davvero gustoso, un piatto ricco, direi ricchissimo, in cui alimentazione, gastronomia, nutrizione fanno ora da piatto principale, ora da contorno, a psicologia, antropologia, letteratura, chi più ne ha più ne metta, e ovviamente anche alla lingua. Quindi... Del resto il legame tra cibo e lingua intesa sia in senso concreto, quella con cui si mangia, si assaporano i cibi, sia nel senso dell'abilità cognitiva, è talmente intricato da non lasciare scoperto alcun ambito della nostra vita. Troviamo il cibo e la modalità della sua somministrazione e della sua preparazione in tutte le pieghe della lingua, nelle metafore, nei proverbi, nelle espressioni idiomatiche, persino in singole parole, in cui però la componente alimentare non risulta accessibile al parlante di oggi se non attraverso la pratica etimologica. Quindi vi propongo in 2 minuti un brevissimo percorso, quindi tenterò di ripercorrere la vita dell'individuo dalla culla alla tomba utilizzando come filtro, come chiave di lettura il cibo. Vai! Si nasce lattanti o infanti, il primo termine da ciò di cui si nutre il cucciolo di uomo, il secondo da ciò che ancora non è in grado di fare, ovvero parlare. Si cresce, si diventa adolescenti e si inizia a cercare l'altra metà della mela, oppure l'altra metà dell'arancia, come dicono i nostri cugini spagnoli. Poi ci si accasa, ci si sposa e si va in luna di miele. Un tempo però nella società contadina in cui poco si concedeva al lusso e si era concentrati sui bisogni primari, la funzione e gli oneri corrispondenti ai diversi membri della famiglia erano misurati sul pane. Ecco perciò una serie innumerevole di espressioni quali chi ha mamma pane, ogni figlio porta un pane, chi mi dà pane chiamo padre, oppure sul pane che si dà, il pane, espressione relativa al pane che si dà, il pane che dai alla moglie è pane perso, mentre il pane che dai ai figlioli è pane che riavrai. Dello stesso tipo è ai figli è pane che presti, al pane, al padre e alla madre è pane che rendi, alla moglie ancora è pane perso. La dimensione della sussistenza nel proverbio, del resto, dopo quella relativa al sesso, ovviamente, è l'ambito che ricorre maggiormente. L'alimentazione però è soltanto la seconda tra le componenti che rientrano nella sussistenza, la prima infatti è il denaro. Ora, guardando agli alimenti che vengono citati, non sorprende di trovare naturalmente al primo posto il pane, seguito più o meno con un centinaio di proverbi di differenza dal vino. La mia fonte è l'Atlante Paremiologico Italiano. In particolar modo, mi pare doveroso citarlo, ho recuperato parte del materiale di uno studioso, Temistocle Franceschi, che si occupa proprio di proverbi della nostra tradizione. E continuando appunto con il repertorio di riferimento dell'italiano, abbiamo che se il pane fa buon cibo, il vino fa buon sangue. E il riferimento ancora alle povere mogli, pane fresco, vino vecchio, ma moglie giovane, anche nella forma essenziale, vino vecchio e donna giovane. Del resto, belle donne, vin buono, mai stufa, e le belle donne, le botti di vino, sono le prime a finire. Vino e donna fanno uscir matti gli uomini, li fanno uscir di melone o di zucca, tanto per cambiare, per variare i termini dell'alimentazione di riferimento. Il connubio vino-donna cessa però con l'età, quello che vale per il vino, che più è vecchio più è buono, non sembra infatti valere per la donna. Mangiando pane e bevendo vino passano gli anni, ci si ritrova vecchi, il vino passa ad essere rappresentato come il latte dei vecchi o la pappa o la poppa dei vecchi. Il vino fa ballare i vecchi, fa stare allegri e se preso a due dita al giorno fa prendere a calci il medico. Potremmo andare avanti così e intrecciare invece che agli e cipolle proverbi su pane e vino, ne metteremmo insieme circa 800. Alcuni di questi non ci risulterebbero più comprensibili perché il nostro contesto di vita è totalmente differente, altri invece li troveremmo pienamente attuali. Però voglio dedicare due parole a chi il riferimento al cibo ce l'ha nel nome di famiglia, nel cognome. L'onomastica cognominale legata all'alimentazione è infatti ricchissima, da Bevilacqua a Pappalardo, da Tagliabue a Scognamiglio, che è quello che pulisce il miglio, con l'elemento magna, mangia o anche pappa troviamo tantissimi cognomi: magna ricotte, magna carne, mangia carne, mangia pera, mangia capra, mangia fave, mangia panelli, panella, mangia bove, mangia vacca, magna vini, persino mangia Giavini, e l'elenco potrebbe continuare. Non lo farò perché voglio andare a chiudere con due altri riferimenti: quello alla maldicenza e, se riesco, quello al sesso, che come nel caso del proverbio vede l'impiego di dire tantissimi, è un eufemismo, termini dell'alimentazione in cima alla lista dei modi con cui si parla del coso e della cosa. La maldicenza, anche qui troviamo dal baccalà al carciofo, al cetriolone, il citrullo, la ciriola, il cefalo, lo gnoccolo, il gnoccolone, il giuggiolone, il bietolone, il broccolo, oppure il tonno, il totano e tantissime altre forme ancora, per indicare la persona poco sveglia, persona che spesso è definita anche come un essere dagli occhi improsciuttiti o foderati di prosciutto, più alta della media e che cammina con le braccia ciondoloni. Il maschio seduttore invece è un galletto, un cetrone, oppure, se è troppo accondiscendente, un pecorone. Grazie, grazie Francesca, ma ti devo chiudere io purtroppo perché sono veramente in ritardissimo. D'accordo, andate su Tutopoli, brava, se volete leggere gli altri. E infatti lo stavo dicendo, ovviamente troverete tutto su tuttopoli.com e Francesca, la nostra grottologa, vi aspetta lì. Buona domenica Francesca, grazie, grazie. A te assolutamente sì, gli aggiornamenti sul traffico. Ok, aspettiamo un attimo e per aggiornamenti cominciamo con il gioco. Allora, neanche, vi ricordo il numero 800240024 per Picasso in 24 minuti. Sta di portarvi a casa il catalogo della mostra e i biglietti d'ingresso. Picasso in 24 minuti. Allora, prima degli aggiornamenti sul traffico, ancora un minuto, vi faccio ascoltare la canzone che dovete associare al quadro di Picasso, il titolo di un'opera ovviamente dell'artista, che in qualche modo potete confrontare con questa famosissima canzone di André. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra, coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. Maria Grazia Di Luca, buona domenica. Grazie anche a voi. Ciao Maria Grazia. Picasso in 24 minuti. Allora, Maria Grazia, hai riconosciuto La guerra di Piero, immagino, di André, no? Ecco, allora, quale opera di Picasso possiamo associare questa canzone? Non ti do nessun aiuto perché trovo che sia veramente facile. Guernica. Guernica, certo, Guernica è... Per te quindi il catalogo della mostra di Picasso. Grazie. Capolavori del Museo Nazionale Picasso, fino al 27 gennaio perché è stata prorogata il biglietto d'ingresso. Buona giornata, grazie. Grazie, arrivederci. Carla da Cuneo, buongiorno Carla. Buongiorno signor Stefano, tutto bene? Benissimo, grazie. Preparati perché c'è un altro quadro da indovinare, un'altra opera di Picasso. Ti aiuterò sicuramente, ma è facile. E senti questa canzone che sicuramente conoscerai. Carla, te la ricordi questa canzone? Magari la ballavi anche, non lo so. Sì, però non mi ricordo il titolo. Allora, te lo dico io, si intitola We Are Family, noi siamo una famiglia, loro erano le Sister Sledge. Il testo dice We Are Family, I Got All My Sisters and Me, cioè ho tutte le mie sorelle e me. E questo dice il testo, le Sister Sledge sono le sorelle Sledge. E quindi come può essere il titolo dell'opera di Picasso che ha a che fare con questa canzone? Le sorelle. Devi mettere un numero fra fra sorelle e le, devi mettere un numero. Le Sister Sledge erano in quattro, ma qua sono meno, decisamente meno, sì. Quindi quante sono le sorelle? Le due sorelle. Le due sorelle, certo. Sì. Antonio e che... vai! Okay. Per te catalogo e biglietto, grazie Carla. Grazie, buona domenica. Ciao, 800240024, c'è Bruna da Brescia. Ciao Bruna. Ciao. Ormai sono tagliata fuori pensavo di essere la prima, ma guarda, era il più semplice. No, ma guarda che sono semplici tutti, ti aiuterò come ho perché fatto fino adesso. Perché poi per me, che sono già così anziana, era un ricordo perché mio padre ha fatto la guerra di Spagna. Ah, beh, certo. Senti, allora era molto facile. Cercherò di aiutarti con questa canzone degli Mi Opus. Mi devi aiutare tantissimo perché ti ascolto tutte le domeniche e non riesco mai a capire niente. Guarda Bruna, ti aiuterò come posso, ma lo farò sicuramente. Non so se ricordi questa canzone, ma forse sì. Bruna, Allora, non so se hai ballato questo pezzo, magari no. No, io sono molto anziana, non conosco neanche la musica. Allora, sono gli Opus di un po' di anni fa, il titolo è Life is Life. Sai un po' l'inglese? No, niente. Vuol dire la vita è vita, il titolo è La vita è vita. Come può intitolarsi quindi l'opera di Picasso che vorrei conoscere? Posso dire una stupidaggine? Ma dilla, è lì, eh? La mia vita? Io seguo quello che dici tu perché non so niente. Ma fai, togli via mia, perché mia? La vita! La vita! Grazie Bruna. Era un po' la mia, eh. Lo so, è vero, in quel senso sì. Era un po' la mia e sono molto emozionata. Bene Bruna, sono contento per te. Per te biglietto d'ingresso e ovviamente il catalogo della mostra. Grazie. Hai una voce dolcissima. Molto bella. Non dico nient'altro. Buona domenica. Maria Grazia da Alessandria. Ciao Maria Grazia. Ciao. Senti, cercherò di aiutarti tantissimo. Ascolta bene questa canzone, ma è molto facile, perché vabbè, insomma, ascolta, ecco. Come un Piero a certi giorni mi vedo la faccia imbiancata, ma certo farina non è. Come un Piero ho lo sguardo indifeso di chi senza amore si perde, lo sai. Come un Piero io mi posso provare di nuovo a farti sorridere, amore, se vuoi. Hai riconosciuto la voce, immagino, Maria Grazia? È Patti Pravo che canta. E hai sentito lei a cosa si riferisce? Lei dice come un... Come un Piero. Come un Piero. E quindi il nome del quadro di Picasso, secondo te, qual è? Sarà Piero. Sarà Piero? E certo che lo è. Ciao Maria Grazia, complimenti. Buona domenica. Ciao, per te catalogo e biglietto della mostra Picasso, capolavori dal Museo Nazionale di Picasso a Palazzo Reale a Milano fino al 27 gennaio. Grazie a tutti, a Giorgio De Luca in redazione, a Nadia Zammichi in assistenza, Paolo Corleoni in regia, ovviamente ai miei ospiti e a voi. Ci sentiamo domenica prossima, puntuale alle 10, con il riposo del guerriero. Buona settimana da Stefano Gallarini.